Il terzo anello ad alta voce, per chi suona la campana, di Ernest Hemingway. Anselmo era accovacciato contro un grosso tronco d'albero dal lato sottovento e la neve gli turbinava intorno. Era schiacciato forte contro l'albero, le mani infilate nelle maniche della giacca, ogni mano nella manica opposta e la testa ritirata nella giacca quanto era possibile. «Se rimango ancora qui, gelerò», pensava, «ed è perfettamente inutile. L'inglese mi ha ordinato di aspettare finché non mi avranno dato il cambio, ma non sapeva che sarebbe scoppiata questa tormenta». Sulla strada non c'è stato nessun movimento insolito, ed ora so come è regolato il servizio del posto di guardia della segheria dall'altra parte della strada. Ora dovrei tornare al campo. Mentre si strofinava i piedi accovacciato, Anselmo udì un'automobile sulla strada. L'automobile aveva le catene, uno degli anelli delle catene si era aperto e batteva. L'automobile avanzò sulla strada coperta di neve, mimetizzata con grandi chiazze verdi e brune, i finestrini dipinti d'azzurro perché non si potesse guardare dentro, tranne un piccolo semicerchio chiaro che permetteva ai passeggeri un'occhiata fuori. Era una Rolls Royce modello 1935 che avevano mimetizzato per metterla a disposizione del comando supremo, ma Anselmo lo ignorava. Non poteva guardare dentro l'automobile dove erano seduti tre ufficiali avvolti nei loro mantelli. Due occupavano il sedile posteriore, uno il sediolino pieghevole. Mentre l'automobile passava, l'ufficiale sul sediolino guardò attraverso lo spiraglio chiaro del finestrino azzurro, ma Anselmo non poteva saperlo. Nessuno dei due vide l'altro. Era la decima automobile che risaliva quel giorno la strada. Sei erano tornate in giù, quattro erano ancora su. Non era un numero insolito di automobili su quella strada, ma Anselmo non faceva distinzione tra le Ford, le Fiat, le Opel, le Renault e le Citroen del comando della divisione e le Rolls Royce, le Lancia, le Mercedes e le Isotta del comando supremo. Questa distinzione Robert Jordan l'avrebbe fatta, e se fosse stato lì, invece del vecchio, avrebbe valutato l'importanza delle automobili che andavano su. Ma egli non era lì e il vecchio si limitava a fare per ogni macchina che risaliva la strada un segno sul foglio del taccuino. «L'inglese mi ha detto di aspettare», pensava. «Forse in questo momento è diretto qui, e se io me ne vado potrebbe sperdersi nella neve cercandomi. Durante tutta questa guerra abbiamo sofferto per la mancanza di disciplina e per l'insubordinazione, ed io aspetterò l'inglese ancora un poco. Ma se egli non verrà presto, dovrò andarmene malgrado gli ordini, perché ora devo fargli un rapporto e in questi giorni c'è molto da fare, e starsene a gelare qui sarebbe un'esagerazione inutile». Dal comignolo della segheria sull'altro lato della strada usciva del fumo e il vento portava l'odore del fumo attraverso la neve verso Anselmo. «I fascisti stanno caldi», pensava Anselmo, «caldi e comodi, e domani sera noi li ammazzeremo. Dopo la guerra, credo, si dovrà fare una grande espiazione per tutto questo ammazzare. Se non avremo più religione dopo la guerra, si dovrà organizzare qualche forma di espiazione civile perché tutti possano lavarsi del peccato d'assassinio. Altrimenti la nostra esistenza non avrà mai una base umana e onesta. Uccidere è necessario, lo so, ma fa molto male all'uomo. E secondo me, quando tutto sarà finito e avremo vinto la guerra, si dovrà organizzare una qualunque espiazione perché possiamo purificarci tutti. Si potrebbe anche pagare qualcosa, come ai tempi della Chiesa», pensò Anselmo sorridendo. «La Chiesa si era organizzata bene per i peccati». Quest'idea lo divertì e sorrideva nel buio quando Robert Jordan lo raggiunse. Arrivò senza rumore e il vecchio lo vide solo quando gli fu vicino. «Hola, viejo!» mormorò Robert Jordan, battendogli la mano sulla spalla. «Come sta il nostro vecchio?» «Ho molto freddo», disse Anselmo. Fernando era rimasto un po' disparte e voltava le spalle alla tormenta. «Vieni, torna presto al campo a riscaldarti. È stata una porcheria lasciarti tanto tempo qui». «Quello è il loro lume», disse Anselmo indicando. «Dov'è la sentinella?» dietro la curva, di qui non puoi vederla. Vada al diavolo, disse Robert Jordan. Mi racconterai tutto al campo. Su, andiamo. Te la mostro, disse Anselmo. La vedrò domani mattina, disse Robert Jordan. Qui, bevi un sorso. Tese al vecchio la fiaschetta. Anselmo se la portò alle labbra e bevve. Ahi, disse, asciugandosi la bocca. È fuoco. Andiamo, disse nel buio Robert Jordan. Andiamo. «È stato qui il sordo», disse Pilar a Robert Jordan. I tre adesso erano passati dalla tormenta al calore fumoso della caverna e la donna aveva chiamato a sé Robert Jordan con un cenno del capo. «È andato in cerca di cavalli». «Bene. Ha lasciato detto qualcosa per me?» «Solo che è andato in cerca di cavalli». «E noi?» «No, sì», disse Pilar. «Guardalo». Entrando, Robert Jordan aveva guardato Pablo e Pablo gli aveva restituito sghignazzando lo sguardo. Ora lo guardò di nuovo, seduto al tavolo di legno, e gli sorrise agitando la mano. «Ingles!» chiamò Pablo. «Nevica ancora, Ingles!» Robert Jordan annuì. Alla tavola erano seduti sei uomini, appoggiati al muro. Anselmo e Fernando erano ancora occupati a scuotersi la neve dalle giacche, a battersi i calzoni e a tirar calci contro la parete vicino all'ingresso. «Dammi la tua giacca», disse Maria. «Non lasciare che la neve ci si sciolga sopra». Robert Jordan si sfilò la giacca, scosse la neve dai calzoni e si slacciò le scarpe. Il fuoco fumava e Pilar gridò a Maria. «Sventola il fuoco, fanullona, non stiamo affumicando i prosciutti». «Sventola tu», replicò Maria. «Io vado a cercare la bottiglia che ha lasciato il sordo». «È dietro i suoi sacchi», disse Pilar. «Devi curarlo come un poppante?» «No», disse Maria, «come un uomo che è bagnato e che ha freddo, come un uomo che è tornato a casa sua. Ah, eccola». Portò a Robert Jordan la bottiglia. «È quella di oggi. Se ne potrebbe fare un bellissimo lume quando riavremo la luce elettrica». Maria guardava con ammirazione la bottiglia di whisky. «E come la bevi questa roba, Roberto?» «Credevo di chiamarmi Ingles», le disse Robert Jordan. «Davanti agli altri ti chiamo Roberto», disse ella piano, arrossendo. «Come la vuoi, Roberto?» «Roberto», disse Pablo con voce spessa, facendo un cenno a Robert Jordan. «Come la vuoi, Don Roberto?» «Ne vuoi anche tu?» Pablo scosse il capo. «Io mi sto ubriacando col vino», disse con dignità. «Va con Bacco», disse in spagnolo Robert Jordan. «Chi è Bacco?» chiese Pablo. «Un tuo compagno», disse Robert Jordan. «Non l'ho mai sentito nominare», disse serio Pablo. «Mai su questi monti». «Chi avrebbe immaginato che quassù potessero avere del whisky?» pensò Robert Jordan. Ma riflettendoci, la granja doveva essere proprio il posto più adatto. Pensa un po', il sordo si procura una bottiglia per il dinamitardo che viene a trovarlo e poi si ricorda di portarla e di lasciarla lì. Questo è più della buona educazione. tirar fuori la bottiglia e dartene un bicchierino, questa è buona educazione. Questo avrebbe fatto un francese e il resto l'avrebbe messo da parte per un'altra occasione. Questo è spagnolo. Questo è un lato del carattere spagnolo, pensò Robert Jordan. Il fatto che si ricordino di portarti il whisky è uno dei motivi che ti fa amare questo popolo. Niente esagerazioni romantiche, pensò a questo punto. Ci sono tante specie di spagnoli, quante di americani. Comunque, portare il whisky è stato molto bello. Roberto, disse Maria, e gli si avvicinò sempre tenendo in mano la bottiglia. Vuoi mangiare ora? È pronto? È pronto. Puoi mangiare quando vuoi. E gli altri hanno già mangiato? Tutti tranne tu, Anselmo e Fernando. E allora mangiamo, disse egli. E tu? Io mangerò dopo, con Pilar. Mangia ora con noi. No, no, non sta bene. Su, mangia con noi. Nel mio paese un uomo non mangia prima della sua donna. Quella è la tua patria, qui è meglio mangiar dopo, sai. Mangia pure con lui, disse Pablo, alzando gli occhi dalla tavola. Mangia con lui, bevi con lui, dormi con lui, segui le usanze del suo paese. Sei ubriaco? Chiese Robert Jordan, mettendosi davanti a Pablo. L'uomo voltò verso di lui la faccia sporca e barbuta e lo guardò divertito. Sì, disse Pablo. Dov'è la tua patria, inglese? Il paese dove le donne mangiano con gli uomini? Negli Estados Unidos, nello stato di Montana. E lì gli uomini portano le sottane come le donne? No, quella è la Scozia. Ma ascoltami, disse Pablo, quando porti la sottana, inglese? Io non porto la sottana, disse Robert Jordan. Quando tu dunque porti questa sottana, Pablo seguitò, che cosa porti sotto? Io non so che cosa portano sotto gli scozzesi, disse Robert Jordan. Me lo son chiesto sempre anch'io. Non gli escoceses, disse Pablo. Chi ti parla degli escoceses? Chi vuoi che si occupi di gente che ha un nome così buffo? Io no, me ne infischio. Io parlavo di te, inglese, di te. Che cosa porti al tuo paese sotto le sottane? Ti ho già detto due volte che noi non portiamo sottane, disse Robert Jordan, né per scherzo né quando siamo ubriachi. «Ma sotto le sottane, insiste Pablo, tutti lo sanno che portate le sottane, perfino i vostri soldati, ho visto delle fotografie e li ho anche visti al circolo Pris. Tu che cosa porti sotto le sottane, inglese?» «Los cojones», disse Robert Jordan. Anselmo rise e tutti quelli che lo ascoltavano risero, meno Fernando. Quella parola volgare detta in presenza di donne lo offendeva. «Ma sì, questo si capisce», disse Pablo. «Ma io trovo che se tu avessi abbastanza cojones, non porteresti le sottane». «Non gli rispondere, altrimenti non la finirà più, inglese», disse Primitivo, quello col viso piatto e col naso rotto. «È ubriaco». Thank you. I tre adesso si erano seduti al tavolo e gli altri erano seduti intorno a loro. «Senti, Inglese», disse Agustin, «come va che sei venuto in Spagna? Non badare più a Pablo, è ubriaco». «Venni qui per la prima volta 12 anni fa», disse Robert Jordan, «per studiare il paese e la lingua. Io insegno lo spagnolo all'università». «Non sembra affatto un professore», disse Primitivo. «Non ha la barba», disse Pablo. «Guardatelo, non ha la barba». «Sei veramente un professore?» «Sono lettore». «Ma dai lezioni?» «Sì». «Ma perché lezioni di spagnolo?» chiese Andrés. «Non sarebbe più facile per te, che sei un inglese, insegnare l'inglese?» «Parla lo spagnolo come noi», disse Anselmo. «Perché non dovrebbe insegnare lo spagnolo?» «Sì», disse Fernando, «ma in un certo senso è una presunzione per uno straniero insegnare lo spagnolo». «Non lo dico per te, don Roberto». «È un falso professore», disse Pablo, molto soddisfatto di sé. «Non ha la barba». «L'inglese lo sai certo meglio», disse Fernando. «Non sarebbe molto meglio e più semplice e naturale insegnare l'inglese?» Pilar intervenne a sua volta. «Ma lui non dà lezione agli spagnoli». «Questo almeno voglio sperarlo», la interruppe Fernando. «Lasciami finire, asino», gli disse Pilar. «Lui dà lezione di spagnolo agli americani, ai nordamericani». «Don Roberto», disse Pablo, «non ha la barba, è un falso professore». «Perché dici che non ho la barba?» fece Robert Jordan. «E questa che cos'è?» Si lisciò il mento e le guance, coperti da una barba bionda di 3 giorni. «Quella non è la barba», disse Pablo scuotendo la testa. «Non è la barba!» Adesso la sua voce era quasi gioviale. «Lui è un falso professore!» «Sembra proprio di stare in un manicomio», disse Agustin. «Dovresti bere!» gli disse Pablo. «A me tutto sembra molto naturale, tranne una cosa, che don Roberto non abbia la barba!» Maria passò la mano sulla guancia di Robert Jordan. «Ce l'ha la barba!» disse a Pablo. «Tu dovresti saperlo», disse Pablo, e Robert Jordan lo guardò. «Non credo che sia tanto ubriaco», pensò Robert Jordan. «Non è molto ubriaco e sarà meglio che faccia attenzione». «Tu», disse a Pablo, «credi che questa neve durerà molto?» «Che cosa ne pensi?» «Ti ho fatto una domanda». «Chiedilo a un altro», replicò Pablo. «Io non sono il tuo servizio di informazioni». «Ah, e domanda alla donna, è lei che comanda». «L'ho domandato a te». «Vatti a far fottere», disse Pablo. «Tu e la donna e la ragazza». «È ubriaco», disse Primitivo, «non ti curar di lui, Inglese». «Non credo che sia tanto ubriaco», fece Robert Jordan. Maria stava dietro di lui e Robert Jordan vide che Pablo aveva girato la testa per sbirciarla. Gli occhietti di cinghiale nella testa tonda e ispida la fissavano e Robert Jordan pensò: «In questa guerra ho veduto molti assassini e qualcuno l'avevo visto prima e tutti uno diverso dall'altro. Non hanno mai niente in comune, nessun tratto uguale e in realtà il vero tipo del criminale non esiste. Ma Pablo senza dubbio non è bello». «Io non credo che tu sia capace di bere», disse a Pablo, «e nemmeno che tu sia ubriaco». «Sono ubriaco», disse Pablo dignitosamente. «Bere è niente, essere ubriaco è importante, e sto in muy borracho». «Questo lo metto in dubbio», gli disse Robert Jordan. «Sei un vigliacco, questo sì». Improvvisamente nella capanna si fece un tale silenzio che egli udì sfrigolare i ciocchi in combustione sul focolare dove Pilar cucinava e scricchiolare la pelle di pecora su cui appoggiava i piedi. Thank you. gli sembrava quasi di udire cadere la neve di fuori. Questo no, ma udiva il silenzio nella quale cadeva la neve. «Mi piacerebbe ucciderlo e non pensarci più», pensò Robert Jordan. «Non so che cosa stia per fare, ma certo niente di buono. Dopodomani ci sarà la faccenda del ponte e quest'uomo non è fidato e costituisce un pericolo. Via, facciamola finita». Pablo rise e, guardando Robert Jordan, alzò l'indice e se lo passò in croce sulla gola. Poi scosse il capo, girandolo appena da una parte e dall'altra sul grosso collo. «No, Inglese», disse, «non mi provocare». Guardò Pilar e le disse, «Non è così che vi sbarazzerete di me, sinvergüenza», disse Robert Jordan, che adesso si era deciso dentro di sé all'azione. «Cobarde!» «Può darsi», disse Pablo, «ma io non mi lascio provocare. Prendi qualcosa da bere». «Salud, Pablo», disse Robert Jordan, e alzò la tazza e bevve. «Io sto imparando molto da te». «Il professore impara da me», disse Pablo scuotendo la testa. «Su, Don Roberto, diventiamo amici!» «Lo siamo già», disse Robert Jordan. «Ma da questo momento saremo buoni amici!» «Siamo già buoni amici!» «Bisogna che esca di qui!» disse Agustin. «Che cos'hai, negro?» domandò Pablo. «Non ti fa piacere che io e Don Roberto siamo buoni amici?» «Pensaci bene prima di chiamarmi negro!» Agustin si piantò davanti a Pablo con le braccia penzoloni. «Così ti chiamano», disse Pablo. «Ma tu no». «E va bene. Blanco, nemmeno questo». «Che cosa sei allora? Rosso?» «Sì, rosso. Rojo, con la stella rossa dell'armata. È tutto per la Repubblica. E il mio nome è Agustin». «Che patriota», disse Pablo. «Guarda, Inglese, che patriota esemplare». Agustin gli percosse la bocca col rovescio della mano sinistra così forte che si udì lo schiocco. Pablo non si mosse. Gli angoli della sua bocca erano sporchi di vino e la sua espressione non cambiò, ma Robert Jordan vide i suoi occhi restringersi come quelli di un gatto quando alla luce viva la pupilla si riduce a una fessura verticale. «Questo no», disse Pablo. «Non contare su questo, mujer». Volse la testa verso Pilar. «Io non mi lascio provocare!» Agustin lo percosse nuovamente. Questa volta lo percosse col pugno chiuso sulla bocca. Robert Jordan teneva la pistola in mano sotto la tavola. Aveva tolto la sicura all'arma e spingeva da parte con la sinistra Maria. L'uomo, dalla testa rotonda, fissava Agustin con i suoi occhi piatti. Le pupille erano diventate ancora più piccole. Egli si leccò le labbra, alzò un braccio, si asciugò con il rovescio della mano la bocca, guardò giù e vide sangue sulla propria mano. Si passò allora la lingua sulle labbra e sputò. «E anche questo no», disse. «Io non sono uno stupido, io non provoco nessuno». «Cavron», disse Agustin. «Tu dovresti saperlo», disse Pablo. «Tu conosci la donna». Agustin lo percosse di nuovo con violenza sulla bocca e Pablo scoppiò a ridere mostrando i denti gialli, rotti, marci, nella fessura insanguinata della bocca. «Lascia stare», disse, immergendo una tazza nell'orcio. «Nessuno di voi ha abbastanza cojones per uccidermi e questi schiaffi sono semplicemente ridicoli». «Cobarde», disse Agustin. «E lascia stare anche le parole», disse Pablo, e si sciacquò rumorosamente la bocca col vino. Poi sputò sul pavimento. «Io sono molto al di là delle parole», disse. Agustin stava in piedi, gli occhi su di lui, e lo insultava. Parlava lentamente, chiaramente, amaro e pieno di disprezzo, con ritmo misurato, come se buttasse col forcone dei carri il concime sul campo da concimare. «Tutto è inutile», disse Pablo. «Fuori nevica! Rimani qui comodo! E tu? Tu?» Giunto alla porta, Agustin si era voltato. Mise tutto il suo disprezzo in quell'ultima paroletta. «Tu?» «Sì, io!» disse Pablo. «Io sarò ancora in vita quando tu sarai morto!» Riempì di nuovo la tazza di vino e beve alla salute di Robert Jordan. «Al professore!» Poi, volgendosi a Pilar, «Alla signora comandante?» Poi si rivolse a tutti. «A tutti gli illusi!» «Che cosa?» disse Agustin. «Che cosa?» «Ho pensato che voi siete una banda di illusi», disse Pablo. «Guidati da una femmina che ha il cervello fra le cosce e da un forestiero che è venuto per distruggervi!» «Fuori di qui!» gli gridò Pilar. «Fuori! E va a scorreggiare nella neve! Porta fuori di qui il tuo lecce marcio, pezzo di maricon pompato dai cavalli!» «Così va bene», disse Agustin con ammirazione ma distrattamente. «Me ne vado», disse Pablo, «ma tornerò presto!» Sollevò la coperta che pendeva all'ingresso della caverna e uscì fuori. Poi gridò dall'orifizio. «Nevica sempre, Inglés!» Omero Antonutti ha letto Per chi suona la campana di Ernest Hemingway, regia di Anna Antonelli, riduzione di Giovanni Piccioni, coordinamento di Fabiana Carobolante, il terzo anello @rai.it.